Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, vi siete aggregati ora, siete ben arrivati comunque, nonostante i temerari siano quelli che si uniscono a noi alle 6:30 e ci seguono fin dall'inizio, ma siamo pronti a leggere i giornali ora insieme a voi. Vi ricordo che parleremo ovviamente di politica, di quello che è l'attesa per queste consultazioni che sono finite, oggi forse Napolitano darà l'incarico, un primo incarico a Bersani. Avremo con noi due esponenti del PD e del PDL che sono anche amministratori, il presidente dei comuni del Rio, presidente e sindaco di Reggio Emilia, e poi con noi il sindaco di Pavia, invece Cattaneo, per il PD e PDL rispettivamente. Avremo con noi anche eccezionalmente alle 8:30 Alberto Forchielli, oggi l'abbiamo portato lì, il presidente dell'Osservatorio Asia, uno che ha sempre una lingua puntuta sulla politica da osservatore esterno, ma non troppo. Ora i giornali in edicola, andiamo a leggerli. In questo venerdì 22 marzo, intanto i titoli, Sole 24 Ore per l'ennesimo giorno apre sui debiti della pubblica amministrazione con le imprese, sul tavolo 40 miliardi, è il primo passo, dice il presidente di Confindustria Squinzi, ora misure attuative in tempi rapidi. Vedremo se davvero è un qualcosa di concreto o è solo un annuncio, perché molti giornali dubitano così. La politica invece, per il Corriere della Sera, governo, Bersani ci prova, Repubblica, governo oggi in carico a Bersani, La Stampa, governo, il tentativo di Bersani, Il Fatto Quotidiano, cerco i voti in Parlamento, incarico esplorativo a Bersani, Il Messaggero, incarico a Bersani, ecco i paletti. Come vedete sono quasi unanimi i giornali ad aprire. Il Secolo XIX, incarico a Bersani, le condizioni del Colle, Avvenire, Bersani si lancia, il Colle ci pensa, L'Unità, Bersani, un governo di svolta. Libero invece già punta su Grasso che cola, questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale invece, traditori dell'Italia, la vicenda dei Marò su in prima pagina. Il Manifesto torna sulla politica, mi incarico, e c'è la foto di Bersani. Voglio partire da due notizie di due persone che di un tema, per la verità, e una persona che abbiamo ospitato nei giorni scorsi. La persona è Antonio Ingroia. Oh, c'è stata la svolta, era qua proprio ai nostri microfoni due giorni fa a dire: adesso aspetto che il CSM mi incarichi e mi indichi il luogo d'Italia dove dovrei tornare a fare il magistrato, il giudice, per la verità, non più il pubblico ministero, ma il giudice. E il CSM ha scelto Aosta. Ora, vi immaginate, lo stesso CSM dice può sembrare una scelta punitiva, in realtà c'è una ratio in tutto questo, cioè Ingroia è stato destinato, almeno questa è l'indicazione, poi lui dovrà accettare, dovrà vedremo se si opporrà oppure no. È stata scelta Aosta perché la Val d'Aosta è l'unica regione dove Ingroia non si è candidato, e quindi essendo l'unica regione dove non si è candidato è stato ritenuto opportuno mandarlo lì. Il CSM, Ingroia giudice ad Aosta, il magistrato dice non è una punizione, Gongola dell'Utri, scrive il Corriere della Sera, il suo diciamo avversario, la persona che lui ha indagato e poi è stato imputato, anche condannato in primo grado. Ingroia d'Aosta, il fatto è che ha sbagliato, non poteva candidarsi, è un magistrato inquirente con un potere enorme, alla fine ha tolto la maschera, non doveva farlo. Ingroia, che si schermisce anche su Repubblica, raggiunto da Liana Milella al telefono, dice vabbè, siccome non so sciare mi farò delle passeggiate estive. Così Antonio Ingroia. Sta di fatto che è anche il tema del buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa oggi, la vicenda di Antonio Ingroia. Ingroia d'Aosta, Gramellini non se la prenda, dottor Ingroia, ignori le freddure del Monte Bianco, che, appresa la notizia del suo arrivo, avrebbero espresso l'intenzione di trasferirsi in Guatemala. Ignori le facce a mezz'asta degli amici, categoria scarsamente rappresentata all'interno della commissione di colleghi che ha deciso di metterle una giacca a vento sopra l'Eschimo, proponendo al CSM di spedirla al tribunale di Aosta. Motivazione? Era l'unico capoluogo in cui lei non si fosse candidato alle elezioni. In effetti, nei comizi avrebbe avuto qualche problema con il patois. Ma si può congelare dentro un paio di sabots la carriera di un magistrato che dalla Sicilia al Centro America ha sempre privilegiato le alte temperature? Non se lo chieda, non dia loro la soddisfazione di immaginarla alle pendici del Cervino intento a dirimere una causa per furto di grolla o di tessere dello skilift. Anche lei, però, dopo l'esito non propriamente trionfale delle elezioni, l'inevitabile rientro nei ranghi della magistratura, aveva tempo fino all'11 marzo per indicare le sedi di sua preferenza, dall'inferno di Dante alla Chicago di Al Capone. Invece non lo ha fatto, ispirandosi alla maschera dell'idalgo indolente che Crozza gli ha cucito addosso. Ma si consoli, dottor Ingroia, non è certo il primo eroe dei due mondi ad appartarsi dalle miserie umane dopo un'esperienza deludente in politica. Era già successo al suo predecessore, Garibaldi, che finì a Caprera, nonostante fosse molto più moderato di lei. Aosta è bellissima, se ne innamorerà. E poi dia un'occhiata all'elenco del telefono, non troverà neanche un Berlusconi. Così, insomma, Ingroia pare pronta ad andare ad Aosta. Altro tema che abbiamo affrontato, vi ricordate la vicenda della piccola bambina Sofia di 3 anni, malata di una malattia degenerativa molto grave, che ha avuto accesso a una cura controversa, il cosiddetto metodo Vannoni di infusione di cellule staminali, data dagli ospedali di Brescia, e per la quale molti scienziati si sono arrabbiati col ministro a dire: ma come, quella non è una cura validata scientificamente, non può, caro ministro, una struttura pubblica ospedaliera dare questo tipo di cura. Perché ne parliamo? Perché oggi su tutti i giornali la vicenda ha un sviluppo. Staminali sì alle cure già iniziate, protocolli per i casi futuri. La vicenda è questa: in via del tutto eccezionale il governo ha detto che i bambini che hanno già iniziato, non è solo la piccola Sofia, queste infusioni di staminali possono continuare a farle. Un via libera concesso eccezionalmente, anche se lo stesso governo riconosce le cellule sono preparate in laboratori non conformi alle regole europee di buona fabbricazione. Questo trovate per esempio Margherita De Bac sul Corriere della Sera, ma anche il giornale dedica una pagina a questo con Francesca Angeli. La vittoria della piccola Sofia: potrà continuare a curarsi con le staminali. La mamma, che è stata nostra ospite lunedì scorso, dice: il nostro pensiero va ora a tutti i bambini che restano fuori dal protocollo, perché solo i bambini che hanno già iniziato questo protocollo sono stati autorizzati a continuare. Anche il giorno dedica una pagina a questo: Sofia e gli altri bimbi malati, sia le cure staminali già iniziate. Così anche sulla Stampa: via libera a chi è già in cura. Ovviamente gli scienziati ora sono un po' stupiti a dire: ma come? In una struttura pubblica ospedaliera si dà una cura che non è validata scientificamente. Su questo tema interviene anche Umberto Veronesi con un editoriale in prima pagina di Repubblica. Staminali, primo via libera al diritto della speranza. Scrive Veronesi: la vicenda di Sofia, col suo comprensibile carico di emotività, ha dato un quadro sfalsato del paese. Da un lato è apparsa una comunità scientifica chiusa nei suoi dogmi, sorda al dolore dei pazienti; dall'altro uno Stato che si occupa dei problemi dei malati solo quando appaiono sui media. La verità è che di fronte a situazioni di disperazione, scrive Veronesi, come quella di Sofia e di tanti altri bambini, adulti, colpiti da malattie complesse, ci troviamo di fronte a un dilemma. Dobbiamo difendere la scienza e proteggere i malati da false illusioni, ma non possiamo mai togliere loro la speranza. Dobbiamo quindi essere capaci di scindere il problema in due aspetti. Da un lato quello medico-scientifico, dall'altro quello umano. Ognuno ha il diritto di cercare la guarigione della malattia attraverso ogni via, anche andando a cercare un farmaco derivato dal veleno dello scorpione di Cuba, oppure intraprendendo cammini metafisici in qualunque angolo del mondo. Ma è importante avere la certezza che un ospedale non dispensa cure sperimentali e complesse sulla base di onde emotive o di pressioni esterne, ma segue metodi che in tutto il mondo permettono il progresso della medicina. Credere nella scienza, scrive ancora Veronesi, non significa non partecipare al dolore, al dramma psichico delle persone. E anche in questi casi l'ospedale è tenuto a offrire cure certificate. Se c'è un minimo dubbio, come è accaduto nel caso della stamina, cioè di questo metodo, deve approfondire, cercare altre vie e applicare le indicazioni degli organismi di vigilanza che hanno omologhi in ogni paese civile. Le regole della scienza non sono asettiche e spietate, sono semplicemente regole. E conclude Veronesi, l'ho scritto, lo ripeto anche questa volta, la medicina e la ricerca sono al servizio dell'uomo, la sanità pubblica non lavora per il male della popolazione e lo Stato non è un nemico. Così Umberto Veronesi, insomma, questa controversia davvero che ora viene riproposta sul tema, da un lato del dibattito e della speranza, insomma il diritto alla speranza, come è il titolo dell'editoriale del professore, dall'altra parte anche il diritto della scienza a dire ci sono delle regole e com'è possibile che in un ospedale pubblico della sanità pubblica si dispensi una cura che non è validata scientificamente. Andiamo a sentire la pubblicità e il meteo e poi ritorniamo e ripartiamo ovviamente dalla politica con l'incarico forse oggi a Bersani. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora alle 7:36 minuti la politica. Oggi troverete tanti articoli che sono più o meno fotocopie su tutti i giornali, perché tutti raccontano che molto probabilmente Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica, che si è preso una giornata, una notte di meditazione anche dopo la fine delle consultazioni, oggi, diciamo, molto probabilmente darà l'incarico a Bersani. Questo titolo hanno tutti i giornali. È ovviamente un tentativo, perché i numeri sulla carta non ci sono, lo sappiamo già, soprattutto al Senato. Napolitano verso l'incarico a Bersani, titolo a pagina 12 Il Sole 24 Ore. C'è la cronaca di Lina Palmerini, un incarico a Pierluigi Bersani la cui natura e i contenuti saranno ben definiti oggi dal capo dello Stato. Oggi Giorgio Napolitano tirerà le somme di questo giro di consultazioni che si è chiuso ieri proprio col gruppo del PD guidato dal suo segretario. Molto probabilmente lo scenario è questo: darà Bersani l'incarico sia perché è ciò che il leader PD gli ha chiesto, sia perché altre ipotesi in campo al momento non ci sono. Perché ieri Beppe Grillo è andato lì, gli ha detto dia l'incarico a noi. Poi tra l'altro vedremo, tra poco ci sono un paio di retroscene interessanti su come sarebbe andato l'incontro tra Grillo e Napolitano. Dall'altra parte il PDL, diciamo, è in minoranza come voti, ma dice puntiamo al governo di coalizione, un governo di larghe intese. Insomma, pare che Bersani sia la strada al momento, la strada del mandato condizionato. Ora dovrete anche diventare gli esperti di Costituzione, cari italiani, se volete districarvi dietro quello che potrebbe succedere oggi. Incarico con riserva, incarico condizionato, incarico pieno, incarico mandato esplorativo, sono tutte varie formule, insomma, per cercare di trovare una soluzione. La strada del mandato condizionato, così titola pagina 3 Il Corriere della Sera. Marzio Breda, che analizza tutto quello che succede al Quirinale e dintorni. Forse la notizia più interessante di questo articolo di Marzio Breda arriva proprio in chiusura, quando scrive Breda che contro ogni obliqua minaccia c'è da giurare che se dovesse andare male Bersani, un impensabile deus ex machina per un suo governo, Napolitano lo scoverà. Come dire, c'è già pronto un piano B? Tra l'altro tutti guardano a Piero Grasso. Piero Grasso che, insomma, si è messo 6 mesi fa in aspettativa e praticamente quasi in pensione dalla magistratura. È stato eletto nel PD, è stato eletto come nome nuovo nel partito e come presidente del Senato. Ora viene detto come possibile, papabile, piano B e quindi premier. Qualcuno addirittura guarda lui come successore di Napolitano al Quirinale. Ma insomma, è una carriera fulminante dal punto di vista politico per l'ex magistrato. Sta di fatto che Piero Grasso ieri poi ha detto sono pronto a tutto, poi ha smentito, poi in serata ha telefonato in diretta, se l'avete visto, da Santoro, dicendo che Travaglio mi infama, invito Travaglio a un confronto pubblico. Lì si è un po' forse tradito quando Santoro gli ha detto vabbè, venga qua settimana prossima. No, non abbiamo tempo, dobbiamo fare questo confronto pubblico nel giro di 3 giorni, perché lui ha detto queste accuse non possono reggere così tanto da parte di Travaglio. Io l'ho letta come dire, ho 3 giorni di tempo prima che poi qualcuno mi dia l'incarico di fare il Presidente del Consiglio e quindi ho altro a cui pensare che un duello televisivo con Travaglio. In ogni caso, sta di fatto che ci sarà questo incarico a Bersani. Pierluigi tenta la scommessa finale nel retroscena di Repubblica, firma Francesco Bei e Goffredo De Marchis. Pare che Bersani abbia iniziato così il colloquio, finito l'incontro con Napolitano coi suoi: beh ragazzi, poteva andare peggio. E la scommessa di Bersani è quella di fare un governo di cambiamento. In realtà la stessa Repubblica, e così anche sulla stampa, racconta quello che sta fremendo all'interno del Partito Democratico, e cioè l'idea che dovesse andar male Bersani con questo tentativo, con lui abbiamo chiuso. Questa è un po' la sensazione all'interno del partito. Anche i giovani turchi, cioè quella corrente legata a Orfini, Fassina, racconta Repubblica pagina 4, è finita una fase. Franceschini, anche lui ex segretario del PD, se sbatte lui, cioè Bersani, a rischio è il partito. E così anche sulla stampa: il PD teme il flop, c'è il rischio di una implosione. Carlo Bertini a pagina 4, la fronda anti-Bersani è anche tra i giovani turchi, pronti a sostenere Renzi se si andasse alle urne. Cioè i giovani turchi, Orfini, Fassina, quelli che hanno incrociato politicamente le armi per mesi e mesi contro il rinnovamento di Renzi, ora pare che in nome anche di una vicinanza generazionale di età sarebbero pronti proprio ad avvicinarsi allo stesso Matteo Renzi, ad aiutarlo a dire sì, sei tu l'uomo nuovo del Partito Democratico. Questo ovviamente sempre che Bersani non ce la faccia a trovare una soluzione che appare francamente difficile, ma i miracoli nella politica a volte succedono. Dicevamo, Grillo e Napolitano. Ieri era l'incontro del giorno, certamente, no? Massimo Cacciari qui ha detto, ha ribadito, avrei dato un anno di vita per assistere a questo incontro. Sono due i retroscena che raccontano di questo incontro. Sul Secolo XIX, Giovanni Mari, a pagina 3, Grillo al Colle e sono scintille. Addirittura racconta Giovanni Mari che l'ex comico è andato, ha iniziato a debordare di parole senza alzare mai il tono dell'invettiva, per carità, ma inondando la sala di teorie e spiegazioni, impedendo almeno due volte a Napolitano la replica o la risposta. C'è un Beppe Grillo che ha zittito Napolitano, questo almeno secondo il Secolo XIX. Vede presidente, lei ci deve lasciare governare, siamo la prima forza del paese, ci deve dare l'incarico, al che Napolitano ha chiesto in questa ricostruzione del secolo: sì, ma voi chi proponete per l'incarico a presidente del Consiglio? Grillo non ha il nome. Non importa, presidente, lei ce lo dia, noi abbiamo un programma, chiunque può portarlo a termine, ci assegni il governo e poi noi le faremo il nome. Scusi, Grillo, gli ha risposto Napolitano, ma i governi si assegnano a un presidente del Consiglio, non ha un programma. E poi, con quali voti intendete ottenere la maggioranza in Parlamento? In questo caso la risposta di Grillo è immediata: lei non si preoccupi, vedrà che col nostro programma i voti li avremo e ci voteranno la fiducia, ci pensiamo noi. Al che Napolitano l'ha gelato con: servono numeri certi. E qui si è concluso un po' questo incontro, anche molto atteso, con Grillo che, uscendo dalla sala, pare abbia detto a Napolitano: comunque l'ho trovata molto più sveglia del previsto e non la chiamerò mai più Morfeo. Sulla stampa il retroscena parte da prima. Andrea Malaguti a pagina 7 parte dall'ingresso di Beppe Grillo all'interno del Quirinale. Pazzesco, pazzesco. Si guarda intorno, un mondo fatto di marmo, legno, storia. Quasi in trance, parla da solo, scrive Malaguti. Vendiamo tutta sta roba e risaniamo il bilancio pubblico. Così avrebbe detto Beppe Grillo. Si passa una mano tra i capelli, respira affannosamente. Se io sono qui vuol dire che c'è stata la rivoluzione, la vittoria della rete. E poi l'incontro con Napolitano, anche qui racconta Malaguti, con qualche momento di tensione, quando Napolitano chiede appunto: ma qual è il nome che voi proponete? Noi abbiamo un programma e chiunque lo può portare a termine. E su questo davvero il dialogo si interrompe. Poi esce da una via secondaria, ce l'ha coi giornalisti: dai giornalisti non vado, sono la lobby peggiore, corrotti, vigliacchi, prezzolati, la prima legge che farei sarebbe per togliere qualunque forma di finanziamento alla stampa, via tutto. un Beppe Grillo, insomma, che arrabbiatissimo. Poi abbiamo sentito che anche l'ex capo, il capogruppo al Senato, Vito Crimi, ha detto: mi stanno proprio sul cazzo i giornalisti. Questo in un'intervista che trovate anche in un audio che trovate su radio24.it completo. Comunque anche sul Corriere racconta Alessandro Trocino, un rapporto davvero conflittuale con la stampa. La stampa o cambia o per me non esiste. Questo ha detto Beppe Grillo, uscito. Repubblica intervista quello che ieri era identificato nel secolo XIX come l'economista vicino a Grillo, che potrebbe essere indicato come candidato premier dal Movimento. Si tratta del professor Alberto Bagnai, lo intervista Annalisa Cuzzocrea a pagina 6 di Repubblica. Il professore anti-euro, candidato premier a sua insaputa, così titola però Repubblica, perché dice: io non ho alcuna candidatura, una storia paradossale tutto questo, non ho mai avuto contatti diretti con l'oscuro vertice del Movimento. E così dice questo professore, che si professa vicino a Beppe Grillo, e né con gli eletti, ho solo incontrato alcuni attivisti alle presentazioni del mio libro. Io non ho inventato nulla, faccio riferimento a illustri economisti, il più scalcagnato è direttore di dipartimento ad Harvard, gli altri sono premi Nobel. Sulla domanda, la soluzione uscire dall'euro, lui insegna politica economica all'Università di Pescara, risponde il professor Bagnai: bisogna recuperare la flessibilità del cambio, i politici che hanno dato vita all'euro sapevano che avrebbero generato la crisi, ma sapevano anche che le avrebbe usate come strumentum regni per imporre in fretta e furia riforme che segneranno intere generazioni. Ma questa è la tesi di Grillo. So solo che alla fine della campagna elettorale, dopo aver raccolto un buon numero di voti a destra, ha cercato di dare un colpo alla botte a sinistra mettendo sul blog un mio intervento e un'intervista. Insomma, questo economista dice: io non ho molto a che fare, in realtà le mie teorie economiche sono quelle che ho, ma non ho molto a che fare col Movimento. È giallo. È giallo su questo. Intanto il traffico. In tutto questo stallo, la notizia economica del giorno sicuramente importante è questo, e cioè che il governo ha messo sul piatto 40 miliardi per il pagamento dei debiti a pubblica amministrazione con le imprese, un qualcosa che Confindustria, sulla quale si è battuta molto, sulla quale si batte molto, le imprese anche, è un dramma che tutti coloro che sono imprenditori e fornitori della pubblica amministrazione ben conoscono. Attenzione però, attenzione, perché messa così non è che ci sono 40 miliardi subito, mancano solo quelle quisquiglie, cioè dove trovare i soldi e quando fare i decreti attuativi. Allora il sospetto di molti giornali è questo, il Secolo XIX per esempio lo mette così, il titolo in prima pagina in maniera diretta: 40 miliardi alle imprese, ma è solo uno spot. Il Corriere della Sera con Antonella Baccaro racconta che nel decreto, ai tempi del decreto, c'è stata una divisione in Consiglio dei Ministri tra il Ministro dell'Economia Grilli e il Ministro dello Sviluppo Economico Passera. Il nodo delle fatture, il ruolo degli enti locali, ai quali è stato permesso, è già un primo passo di sforare il patto di stabilità interno e quindi dare dei soldi alle imprese. Non sarà un'altra mega super cazzola, perché a quel punto è chiaro che il livello di tolleranza, di tollerabilità di tutta la faccenda rischia di compromettersi in maniera definitiva. E allora ci sarebbe davvero un distacco totale, netto, tra le decisioni politiche e quella che è la realtà del paese, e al che auguri a tutti, perché il timore è che sia stato fatto un annuncio importante, però se poi, come al solito all'italiana, si trascinano le cose dicendo i decreti attuativi non arrivano, ma questo governo ha finito, ci penserà il governo prossimo, poi magari un governo prossimo arriva e dice: abbiamo rivisto il bilancio, abbiamo rivisto i conti, ops, sono comparsi dei buchi da 12, 13, 14 miliardi, quindi altro che i debiti delle imprese, dobbiamo fare prima una manovra, mettere le tasse, insomma cose che abbiamo visto da 30 anni, al che la pazienza davvero è esaurita da un pezzo. Come dire, vogliamo andare all'altra notizia del giorno di cronaca, certamente. Il titolo potrebbe essere questo: Marò che figuraccia. ma perché la vicenda dei Marò rispediti in India, formalmente, per carità, è finita la licenza, erano qui in licenza e quindi sono stati rispediti in India. Peccato che 20 giorni fa, quando era la Farnesina, il ministro degli esteri, il ministero aveva detto li teniamo qui perché c'è una controversia internazionale. Ieri, dopo un consiglio dei ministri dibattuto, traduco dal politichese, si sono scannati, hanno deciso di rimandarli in India. Il ministro Terzi viene intervistato da Fabio Bogo su Repubblica, insiste su questa questione: non rischiano più la pena di morte, quindi possono tornare. Non li mandiamo incontro a un destino ignoto, non rischiano la pena di morte. La tensione nelle ultime settimane è salita, si sono manifestate preoccupazioni per l'incolumità del nostro ambasciatore. La vicenda ha avuto un risalto internazionale che ha interessato l'ONU e l'Unione Europea. Io personalmente non ho parlato con i Marò, lo ha fatto il presidente del Consiglio, io ho sentito le loro famiglie e credo che in casa ne abbiano discusso. Sanno di avere il sostegno del governo italiano, l'impegno dell'Italia a far sì che la situazione si risolva nel migliore dei modi. Insomma, frasi tutte di circostanza per poi dire, posso solo dire che all'interno del Consiglio dei Ministri ci sono state sensibilità diverse. Tradotto, si sono scannati. E poi il ministro Terzi dice comunque non mi dimetto, mi chiedono le mie dimissioni dal giorno in cui la nave Enrica Lexi è attraccata nel porto di Kochi, con polemiche e strumentalizzazioni che ritengo del tutto ingiustificate. E poi dice Terzi, comunque il governo sta finendo, quindi è un governo dimissionario. Comunque tutti i giornali parlano di figuraccia, non c'è giornale, solo il Fatto Quotidiano che parla di figuraccia, dice bene, abbiamo mantenuto la parola, dovevamo restituire i Marò. Antonio Padellaro, il direttore del Fatto, dice meglio così, ma resta l'errore. Figuraccia invece è il titolo più utilizzato da tutti. C'è anche la disperazione dei fucilieri, racconta il Corriere della Sera. Obbediamo, ma pare che secondo Repubblica ci siano volute 5 ore per convincerli a tornare, nella disperazione, anche nelle lacrime con i loro familiari. Sentite anche Francesco Merlo in prima pagina di Repubblica, il titolo dell'editoriale, l'onore perduto della diplomazia, scrive Merlo: in questi 2 fucilieri li abbiamo esposti alla gogna per colpa di un ministro degli esteri che ha cercato di costruire sulla loro fuga un futuro politico eventualmente elettorale a destra. Ma non parliamo della destra dei valori, della patria, dei tratti eroici, che so, del Duca d'Aosta o di Cesare Battisti, di Enrico Toti, ma della destra badogliana, del tutti a casa. E questi 2 apprendisti eroi li abbiamo trasformati in una coppia di esodati, esponendoli col ritorno obbligato al pericolo vero, il pericolo peggiore per un soldato e un governo, il disonore. Solo ora infatti il processo diventa a rischio, perché i nostri 2 Marò, vale a dire il meglio delle forze armate, non saranno più considerati come 2 fucilieri di marina di un paese amico, 2 militari in attesa di giudizio, ma come 2 prove sfacciate e schiaccianti, non di omicidio ma di furbizia umiliata, i rappresentanti di un'Italia volgare e truffaldina, subito piegata però dalla forza di un brutto atto di rappresaglia. Sino a 1 mese fa i truffaldini sembravano gli indiani, perché i 2 poveri pescatori morti forse non erano pescatori, perché le acque in cui sono morti erano internazionali e perché i nostri soldati si erano sempre comportati da soldati, e i soldati non sparano sui pescatori e più in generale sui lavoratori, in mare come in terra. E che fossero soldati lo avevano dimostrato, non scappando subito dopo l'incidente, ma presentandosi alle autorità locali. Adesso invece che tornano perché gli indiani hanno sequestrato il nostro ambasciatore, violando a loro volta le regole, i 2 soldati diventano prigionieri e non più della giustizia indiana e dei suoi tribunali, ma di un'arroganza da ritorsione. Ora è un'India che si è sporcata con un sequestro di persona che non ha precedenti nel mondo diplomatico e che l'Italia furbastra di Terzi e del ministro Di Paola non sa più come affrontare se non con la resa, la cosiddetta calata di braghe. Questa è la situazione. Tutti parlano di figuraccia. Ho solo 10 secondi, li dedico alla Gazzetta dello Sport che oggi titola a tutta pagina Mennea vola via. Sono tantissimi gli articoli che trovate su Pietro Mennea, sulla scomparsa di questo grandissimo campione che davvero ha fatto la storia dell'atletica italiana e mondiale. Vi segnalo la Gazzetta, ma su tutti i giornali trovate profili e racconti di questa persona che avevamo ospitato anche noi a settembre, non sapendo che era già malato da tempo. Ci fermiamo, giornale radio.